se ne sta lì a sbellicarsi dalle matte risate, perché è un moralista, è un gran sadico, è un padrone assenteista, ecco che cos'è, e uno dovrebbe adorarlo, non mai! Meglio regnare all'inferno che servire in paradiso. Padre nostro, forse non sai che qua giù siamo soli più che mai. Tanti ti chiama con insistenza, molti parla per te con arroganza. Nessuno tenta di uscire da questa stanza, nessuno tenta di uscire da questa stanza. Forse non sai che qua giù siamo soli più che mai. Tanti ti chiamano con insistenza, molti parla per te con arroganza. Nessuno tenta di uscire da questa stanza, nessuno tenta di uscire da questa stanza. Schiacciati gli uni agli altri, soffochiamo i più deboli chiamandoli martiri. Pigiati, schiacciati gli uni agli altri, soffochiamo i più deboli chiamandoli martiri.